falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi parliamo di un gioco che ha conquistato e affascina tuttora milioni di persone. Se vi può interessare, è anche il mio gioco preferito, il gioco degli scacchi. Allora, intanto, scacchi è l'unico gioco in cui non esiste assolutamente la fortuna. C'è solo quello che comincia con il bianco, che ha un leggero vantaggio che si chiama il vantaggio del tratto. Dopodiché non ci sono dadi da tirare o carte da pescare. Vince quello forse che è più intelligente, forse quello che ha studiato più partite, quello che ha più presenza di spirito, quello che ha più inventiva. È una mescolanza di cose. Si dice che gli scacchi sia il gioco più violento al mondo e molti dicono che le sollecitazioni che subiscono i grandi giocatori di scacchi sono superiori a quelle che subiscono i pugili. Oggi racconteremo la storia di un grande campione, uno dei più grandi del secolo che si è appena concluso e che ha vissuto incredibili avventure spostando pezzi sulla scacchiera. Oggi parliamo di Garry Kasparov. Chi sei tu? Sono la morte. Sei venuto a prendermi? È già da molto che ti cammino a fianco. Me ne ero accorto. Sei pronto? Il mio spirito lo è, non il mio corpo. Dammi ancora del tempo. Tutti lo vorrebbero, ma non concedo tregua. Tu giochi a scacchi, non è vero? Come lo sai? Lo so, l'ho visto nei quadri, lo dicono le leggende. Sì, anche questo è vero, come è vero che non ho mai perduto un gioco. Forse anche la morte può commettere un errore. Per quale ragione vuoi sfidarmi? Te lo dirò se accetti. Avanti allora. Questo era il film di Ingmar Bergman, Il Settimo Sigillo, in cui c'è forse la scena più famosa che riguarda gli scacchi, la partita a scacchi con la morte. In realtà ci sono decine e decine di film in cui gli attori giocano a scacchi, forse proprio perché il gioco degli scacchi si presta a mille interpretazioni e può servire per descrivere la metafora dello scontro tra il bene e il male, oppure il duello tra due innamorati per contendersi l'amata, come accade nella sfida degli scacchi viventi di Marostica, oppure può diventare un modo per sostituire la guerra. Salve, professor Vulcan. Salve, Joshua. Strano gioco, l'unica mossa vincente è non giocare. Che ne dice di una bella partita a scacchi? In War Games il computer centrale, dopo aver simulato tutti i possibili conflitti nucleari, propone come alternativa una partita a scacchi, e questo film trae spunto dall'atavico conflitto tra Stati Uniti e Unione Sovietica e trova un riscontro nella realtà con la famosa sfida del 1972 di Spassky, il russo, quello del sistema, e il grandissimo Bobby Fischer, la sfida di Reykjavik, che in qualche modo catalizzò l'attenzione del mondo e contribuì a diffondere il gioco degli scacchi tra tutti i ragazzini di quell'epoca, me compreso. Mentre in quegli anni i due campioni conquistano l'attenzione mediatica, a Baku in Azerbaigian c'è un bambino che a 6 anni ha imparato a giocare a scacchi semplicemente guardando giocare i genitori. Insomma, in Russia giocano tutti a scacchi, da scuola tu vedi i bambini, vedi i netturbini che si fermano in una pausa pranzo mentre stavano pulendo le strade e giocano a scacchi con un panino in mano. Questo bambino a 10 anni è stato appena ammesso alla scuola di Vladimir Makogonov, è uno di quei grandi campioni che rimangono sconosciuti perché non sono mai riusciti ad arrivare ai tornei internazionali. Garry è subito un bambino molto dotato e perspicace, diventa il miglior alunno. A 13 anni vince il campionato sovietico junior. Siccome lo vince anche l'anno successivo, gli viene data l'opportunità di gareggiare con gli adulti. Matto in quattro mosse dalla posizione davanti a te. Non muovere finché non hai risolto nella tua testa. Non guardare me per suggerimenti. Non sono capace senza muovere i pezzi. Sì, invece. Elimina le file di pezzi nella tua mente, una per volta. E il re resterà da solo, come un tizio all'angolo di una strada. Sì, perché la bravura è prevedere quello che accadrà senza toccare i pezzi. C'era un grande campione che si chiamava Aliekin che dai 5 anni in avanti smise di giocare a scacchi con la scacchiera. Giocò a scacchi solo pensando agli scacchi. Comunque, Garry Kasparov non è da meno perché sta diventando un campione in grado di sconfiggere altri avversari e soprattutto per rappresentare con orgoglio la grande madre Russia. Siamo nel 1978, Garry Kasparov, che noi spesso chiamiamo Kasparov, mi capiterà forse di ridire Kasparov nel corso di questo pomeriggio, gioca il Solovsky Memorial di Minsk, che è un torneo di altissimo livello e la voce si è sparsa, lo hanno invitato perché forse le autorità sovietiche cominciano a vedere in lui un erede di Karpov, che è il grande campione in carica. Naturalmente Kasparov quel torneo lo vince. Il torneo di Minsk è sicuramente uno dei ricordi più belli della mia vita. È stato lì che ho capito quanto gli scacchi fossero importanti per me e che diventare un professionista sarebbe stato il mio unico scopo. Siamo in Unione Sovietica, le occasioni per i giovani per espatriare sono poche, no? Diventare campioni dello sport, diventare dei grandi ballerini, ma tra queste attività c'è anche quella dello scacchista. E già Lenin giocava a scacchi, ci sono molte fotografie che lo ritraggono mentre giocava. Come ho detto prima, i russi giocano a scacchi, è una delle attività principali, soprattutto allora, e quindi in qualche modo i genitori di Garry Kasparov lo incentivano perché sanno che si possono guadagnare dei soldi e si può anche fare una bella vita se si diventa campioni di scacchi. There were very few options for kids. C'erano molte più possibilità per i bambini che sapevano giocare a scacchi. Gli stessi genitori sapevano se il loro figlio aveva queste doti speciali. Poteva essere una grande occasione per tutta la famiglia. Garry Kasparov ha molto entusiasmo. Nel 1980, nello stupore generale, vince il campionato del mondo juniores, diventando gran maestro, che è il riconoscimento più alto che si può ricevere dalla Federazione Internazionale, gran maestro internazionale, e si guadagna questo titolo in base a un complicato meccanismo di punti ottenuti con le vittorie dei tornei e con il parametro dell'importanza del torneo, tra l'altro. Comunque, il talento di Kasparov comincia a dare i suoi frutti. Il talento è importante, ma non vai avanti con il talento se non lavori duro. L'allenamento deve essere continuo e produce abilità. Molti giocatori talentuosi non diventano campioni perché non hanno abilità. Eh sì, è un insieme di cose. Intanto bisogna avere memorizzate decine di migliaia di partite, di aperture, di situazioni variabili. Questo soprattutto per la prima fase del gioco, le prime 10-15 mosse in cui devi sviluppare i pezzi. Ma dopo non basta, perché dopo ci vuole creatività, genio, oppure quel qualcosa in più, quello che Bobby Fischer diceva senza mezzi termini, fosse le palle. Perché anche negli scacchi il valore aggiunto, così come nel calcio e negli altri sport, è quell'estro che ti dà la possibilità di essere uno diverso da tutti gli altri. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando quello che per ora è solo un ragazzino prodigio, Garry Kasparov, Kasparov, gioca a scacchi, comincia a vincere tornei, diventa grande maestro internazionale quando è ancora adolescente e mostra già delle qualità superiori, perché negli scacchi non c'è solo l'estro, c'è lo studio, c'è l'applicazione, c'è la memoria e soprattutto la capacità di sapere analizzare le partite e anche i propri errori. It's about working, it's about excelling. C'è un continuo lavoro, una continua attenzione a imparare dai propri errori ed essere sempre estremamente sinceri con se stessi, a volte implacabili, per riconoscere di aver fatto degli errori. Molti giocatori cercano di dimenticare le giornate in cui non sono stati perfetti, ma la sfida più grande è capire il proprio errore e non ripeterlo. Questa per me è la differenza tra essere molto bravo ed essere speciale. From being very good to very special. Eh sì, perché negli scacchi, così come nella filosofia, ci sono delle correnti di pensiero che si sviluppano e migliorano proprio sulla base di quello che hanno pensato i predecessori, e questo crea continuamente, insomma, nuove aperture, nuovi modi di giocare. Quindi bisogna sapere anche imparare dagli errori per poter diventare il migliore. Siamo nel 1982, il campione del mondo è Anatoly Karpov, che nella era del dopo Fischer, cioè quando Fischer abbandona clamorosamente il mondo degli scacchi, riesce a prendere lo scettro del potere e diventa il più bravo. Intanto Kasparov ha solo 19 anni, ma viene già ammesso al torneo dei candidati. Il torneo dei candidati è un incontro, un torneo che si svolge per riuscire a definire lo sfidante del campione del mondo in carica. Già essere ammessi così giovani a un torneo del genere è una cosa che succede molto raramente. Era capitato solo a Bobby Fischer, che è la prima volta che riuscì a entrare nel torneo dei candidati. Di anni ne aveva 15. Ero arrivato in semifinale e avrei dovuto recarmi a Pasadena negli Stati Uniti per battermi contro Viktor Korchnoi, ma in quel momento le autorità mi negarono il visto di espatria. La grande madre Russia, che in quel momento invece è l'impero sovietico, protegge i suoi figli, soprattutto se sono in qualche modo ligi e ossequiosi verso il sistema. Kasparov è nato in Azerbaigian, ha uno spirito piuttosto inquieto, non si è ancora iscritto al Partito Comunista. Tra l'altro, lo sfidante del momento è già un altro dissidente, si chiama Korchnoi, ha preso la cittadinanza svizzera e quindi in qualche modo l'impero sovietico inizia un po' a scricchiolare, la perestroica di Gorbaciov è ancora lontana e lo scontro tra due grandi potenze come gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica passa proprio dalle 64 caselle degli scacchi. Quindi la sfida conclusiva è tra Kasparov e il dissidente Korchnoi. Korchnoi ha dei problemi perché ha la cittadinanza svizzera, molto sportivamente accetta di incontrare Kasparov a Londra perché i sovietici temono che anche lui voglia scappare e diventare a sua volta l'ennesimo transfugo. Bene, la sfida si svolge a Londra, Kasparov batte Korchnoi e si presenta nel 1984 come sfidante al campionato del mondo. Take me today. 1984, Garry Kasparov a 21 anni affronta il grande campione in carica, Anatoly Karpov. Tra l'altro, intanto Kasparov ha accumulato un punteggio superiore a quello di Karpov nella classifica ufficiale della Federazione Internazionale degli Scacchi, quindi è veramente una sfida alla pari quantomeno. I due hanno stili di gioco molto diversi. Karpov è un giocatore più tecnico, si potrebbe quasi dire un giocatore di difesa, comunque è un attendista, mentre Kasparov è più irruento, ha un gioco più brillante, soprattutto quando gioca col bianco. Tra i due nasce una rivalità immediata. any match of that caliber. Ogni match importante è pervaso da un forte sentimento di rivalità che immediatamente si trasforma in tensione. Una reciproca frustrazione di stare seduti di fronte a un giocatore migliore di te. I guess you know it was all more than natural. Karpov è l'eroe nazionale, è il simbolo del regime sovietico. Kasparov è visto come un animo ribelle, non incarna certo i valori del partito e della grande madre Russia. Quindi una vittoria del secondo potrebbe essere vista dall'Occidente come l'atto di debolezza di una nazione che alleva un dissidente e che poi distrugge gli eroi della nomenclatura. Anatoly Karpov received enormous support from the state. Anatoly Karpov aveva un enorme supporto da parte dello Stato. Lui era il difensore dell'orgoglio nazionale ed era stato allenato secondo rigidissime regole di disciplina. Lui rappresentava la nazione. Io ero considerato una specie di ribelle. Credevo che certe regole fossero esagerate. Parlavo con la stampa estera e questo non era visto in modo positivo. Certo, non erano i tempi di Stalin, ma il mio atteggiamento non piaceva alle autorità sovietiche. But it still, you know, was not welcomed by Soviet authorities. Il torneo inizia il 10 settembre 1984 e qui vi devo spiegare una cosa sul regolamento. Fino agli anni 80 il campionato del mondo degli scacchi si svolgeva in 24 partite. Un punto per la vittoria, mezzo punto per il pareggio e chi faceva più punti diventava campione del mondo. Cosa succedeva? Che siccome a quei livelli si pareggia quasi sempre, bastava vincere una o due partite e pareggiare le altre che battevi l'avversario. Allora quell'anno nasce una regola apparentemente più giusta, ma che diventa ancora più complicata, perché la regola è: diventa campione del mondo chi vince sei partite. Questo vuol dire che si passavano giorni, giorni e giorni a sviluppare partite che finivano in pareggio. Quindi quando parte la sfida non si sa quando sarebbe finita. All'inizio Kasparov soffre di una forma di soggezione nei confronti di Karpov che gli fa cambiare la sua strategia di gioco. Comincia e gioca delle partite in difesa e quindi nelle prime 9 partite Karpov vince 4 volte e 5 volte si pareggia, sono patte. A questo punto Kasparov cambia strategia e punta al pareggio per innervosire l'avversario. 17 partite terminano in parità, poi vince ancora Karpov, siamo 5-0, sarebbero 5 match ball. A questo punto Kasparov cambia improvvisamente strategia, torna a attaccare e inizia una serie interminabile di partite che terminano in parità, però all'interno di tutti questi pareggi 3 volte vince Kasparov e siamo 5-3. Nel frattempo, dal 10 settembre 1984, giorno in cui si era cominciato, si è giocato ininterrottamente. Bene, siamo nel febbraio dell'85, 5 mesi dalla prima partita. Karpov è in difficoltà, soprattutto dal punto di vista psicofisico. Immaginate cosa vuol dire giocare tutti i giorni una partita di quel livello per 5 mesi. E intanto c'è un altro effetto, che il mondo degli scacchi è paralizzato, non si fanno più tornei, perché tutti gli obiettivi sono puntati su questa interminabile sfida mondiale. E a questo punto dovete aspettare la nostra prossima mossa per sapere come è andata a finire. Gabbiano. Stiamo raccontando il mondo degli scacchi e soprattutto la storia di un grandissimo campione, Garry Kasparov, e di una grande sfida per il titolo mondiale tra lui, dissidente sovietico non allineato, e il campione della nomenclatura, Anatoly Karpov. Siamo a Mosca, siamo nel febbraio dell'85 e si sta giocando da 5 mesi questa interminabile sfida mondiale. Siamo 5-3 per Karpov, vuol dire Karpov ha vinto 5 volte, Kasparov 3 in rimonta, e tutti gli altri giorni c'è stata una patta, cioè un pareggio. A questo punto il presidente della Federazione Internazionale, Florencio Campomanes, che un po' era il Blatter degli scacchi, decide arbitrariamente di chiudere il match senza vincitori né vinti. La decisione è da attribuire al fatto che si temevano conseguenze gravi sulla salute mentale dei due giocatori, e questo era vero, e anche perché tutto il mondo era paralizzato, il mondo degli scacchi paralizzato, in attesa di conoscere il nome del campione del mondo. Dal mio punto di vista la decisione fu considerata una completa sciocchezza. Inspiegabilmente Karpov, che stava sul 5-3 e quindi era vicino alla vittoria, disse invece che era d'accordo. Allora io feci una conferenza stampa in cui dichiarai apertamente che Karpov veniva aiutato dal governo contro di me, e questa fu una mossa che nessuno aveva mai usato prima, proprio qualche anno prima della sfida tra Gorbaciov e Chernenko. È sintomatico il fatto che Karpov, che stava vincendo 5-3, si dichiara immediatamente d'accordo su questa decisione, mentre Kasparov, che perdeva 5-0 ed è riuscito a rimontare 3 punti, si arrabbia, è molto perplesso, la considera un errore, e soprattutto sente che aveva a suo modo la vittoria in pugno. Il mondo degli scacchi viene dilaniato da polemiche, così viene organizzata una nuova sfida. Si torna alle regole degli anni 70, cioè 24 partite, 12 punti e mezzo per la vittoria, cioè basta vincerne una e pareggiare le altre in qualche modo, e sarà possibile finalmente avere un campione come una volta in un periodo limitato di tempo. Questa sfida viene vinta da Kasparov, che a 21 anni diventa campione del mondo assoluto, ma per lui è molto più che una vittoria. Sta a noi decidere cosa fare del nostro successo, perché quando lo raggiungiamo ci dobbiamo porre subito la domanda di come utilizzare questo successo. Per me non fu difficile, perché io sapevo che non volevo semplicemente vincere, io volevo fare la differenza. Kasparov e Karpov si scontrano altre 5 volte, sfide altalenanti, sempre più spettacolari. Kasparov esce sempre vincitore. Tra l'altro Karpov inizia a fare dei tornei, diciamo, esibizione in Europa, e una volta gioca anche contro di me. Ha vinto lui, naturalmente, a Roma nel 1989. Sono gli anni in cui intanto cresce la polemica con la federazione scacchistica, che per indebolire il campione in carica comincia a inventare modifiche al regolamento. Questo perché il campione è sempre più scomodo. Kasparov non nasconde la sua polemica, attacca le autorità russe dichiarando la loro intenzione di farlo perdere. Però all'orizzonte si sta avvicinando un cambio epocale, uno tsunami che nel 1989 travolgerà il mondo, cambiando tutti gli equilibri che erano immobili dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. GR2 Radio Mattino. Radio Mattino. Buongiorno GR2, in studio Emilio Albertario. Ecco i titoli delle principali notizie. Il muro di Berlino di fatto non esiste più. La Germania dell'Est ha aperto le sue frontiere, storica svolta del regime comunista sotto la pressione popolare. In queste ore c'è una folla immensa che si sta riversando a Berlino Ovest e naturalmente l'emozione è immensa. Cade il muro, si rompe quello schema immobile tra est e ovest che aveva mantenuto l'ordine mondiale per 40 anni, scoppiano le rivoluzioni e crolla il patto di Varsavia, l'Unione Sovietica si smembra in tante repubbliche, in alcuni stati si vivono momenti molto difficili perché i confini sono stati tracciati anni prima e spesso non hanno tenuto conto delle minoranze etniche, insomma scoppiano le prime guerre. Se si guarda la mappa dell'Unione Sovietica, Ci sono stati tanti posti in cui sono scoppiate guerre di religione e guerre tra popoli. Per me, con un padre ebreo e una madre armena, fu un trauma incredibile perché ci furono persecuzioni contro gli armeni e quando Mosca mandò i carri armati non fece altro che legittimare la pulizia etnica. Io avevo 27 anni e da un giorno all'altro lasciai la mia casa e scappai. Overbearing advertising, god of consumerism, and all your crooked pictures looking good. Mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering. Your neighbor, what a guy. I primi anni 90 sono anni di grandi sconvolgimenti politici. Garry Kasparov deve lasciare la città dove è nato e cresciuto, Baku, e così come centinaia di migliaia di suoi connazionali di etnia armena, un'etnia che non ha avuto mai pace nel Novecento. Non ha mai avuto la tessera del Partito Comunista Sovietico e in più non si riconosce in quell'unione che per decenni ha rinchiuso in una convivenza forzata a popoli così diversi. In realtà lui non vive i problemi dei primi anni, quando gli veniva impedito di lasciare lo Stato per andare in Occidente. Ormai è il campione, lo ha confermato negli anni successivi, può fare quello che vuole, anche dichiarare guerra apertamente alla Federazione Scacchistica Internazionale. Arriva al punto di creare una federazione parallela. Non volevano perdere potere. Potere significa soldi e soldi significa avere influenza sugli eventi. Io sto solo difendendo gli scacchi da questa mafia internazionale. Parole pesanti che però il presidente Campomanes non fa nulla per evitare, perché effettivamente è uno dei personaggi più discussi delle federazioni sportive, e Kasparov giudica quelli della FIDE disorganizzati, corrotti, incapaci di attirare nuovi sponsor, e li giudica un centro di potere politico più che tecnico. Alla fine Kasparov e il britannico Nigel Short, che nel frattempo diventa lo sfidante al titolo, si organizzano per i fatti loro e costituiscono una federazione a parte, la Professional Chess Association. Il campione armeno Kasparov gioca contro Short, lo batte. L'altra federazione intanto richiama gli ultimi due sfidanti, tra questi c'è ancora Karpov che vince il titolo. Così nel 93, come è accaduto spesso nel pugilato, i due grandi rivali sono contemporaneamente campioni del mondo in due diverse federazioni. Molti giocatori intanto stanno passando dall'altra parte, cioè dalla parte di Kasparov, che negli anni successivi mantiene il titolo sconfiggendo i vari sfidanti. Ma nel 1996 c'è una sfida contro un giocatore completamente diverso, una sfida che non si può perdere. La posta in gioco è alta. Da una parte c'è il campione 34enne Garry Kasparov, dall'altra parte il più grande computer mai costruito per una partita di scacchi, una macchina chiamata Deep Blue. Eh sì, il computer è entrato nelle vite del mondo e anche nella vita degli scacchi. Gli ingegneri IBM presentano il Deep Blue, è un supercomputer dotato di intelligenza artificiale che dovrebbe essere in grado di battere in completa autonomia lo sfidante Kasparov. La posta in gioco è molto molto alta, perché tutto il mondo degli scacchi è in attesa di avere dei nuovi supporti per sviluppare anche nuove teorie e per giocare senza avere un avversario davanti. E siamo a Filadelfia, 1996, la prima partita viene vinta a sorpresa proprio dal computer. Kasparov riesce a ritrovare la concentrazione, capisce che deve usare il suo estro più che la sua conoscenza teorica, così recupera e vince 4-2, è il punteggio finale. L'anno successivo c'è una rivincita, l'IBM non ci sta, questa volta potenzia il computer, il risultato è sorprendente. Deep Blue, il computer, perde la prima partita, poi vince la seconda, poi ci sono tre patte e poi c'è un clamoroso scacco matto in 19 mosse da parte del computer ai danni del campione Kasparov. When the night wind cries on the blood red feather. Come together, and the loaded road signs, they run. siccome nella vita ogni tanto bisogna schierarsi, io questa volta mi schiero dalla parte di Kasparov, perché Kasparov accusa l'IBM di avere utilizzato giocatori umani per suggerire al computer le mosse vincenti. Infatti questa volta il computer non si trova nella stanza in cui si giocava, si trova in un'altra stanza lontana dal luogo della partita. E io credo che, per quanto un computer possa giocare meravigliosamente a scacchi dal punto di vista della, come dire, accumulazione teorica di migliaia, migliaia, milioni di partite, l'estro fa sempre la differenza. Quindi io credo che Kasparov quella volta sia stato battuto da un pool di campioni di scacchi e non da un computer. La gente si dimentica sempre che quella fu una rivincita e che la prima volta vinsi io. A parte questo, c'era un forte desiderio nell'opinione pubblica di vedere l'uomo contro la macchina e di dichiarare un brillante futuro all'intelligenza artificiale. Per me Deep Blue era solo una sveglia da 10 milioni di dollari. Deep Blue was, you know, once I called it a 10 million dollar alarm clock. Lui la mette sul ridere, ma il problema è molto grave, perché la società Intel, principale finanziatore della PCA, la confederazione creata da Kasparov, è la principale concorrente di IBM, e quindi non prende bene il fatto che Deep Blue, cioè il suo rivale, abbia dimostrato il suo valore sconfiggendo l'uomo sulla cui immagine stavano investendo. Risultato: vengono chiusi i finanziamenti e quindi Kasparov si trova nella impossibilità di organizzare nuove sfide mondiali. A questo punto cede e si riappacifica con la FIDE, anche perché nel frattempo il vecchio Campo Manes aveva lasciato finalmente la presidenza nel 95. La riappacificazione avverrà solo nel 2000 e in quell'anno c'è da affrontare una nuova sfida contro il nuovo aspirante campione del mondo, che questa volta è Vladimir Kramnik. Kramnik era più giovane di me di 12 anni e, per ironia della sorte, scelsi io lo sfidante. E scelsi lui perché aveva lavorato con me alla preparazione del match contro Deep Blue del 95. Per ogni campione c'è il momento della sconfitta, e il momento è questo, perché Kramnik vince, e vince pareggiando o battendo Kasparov. Cioè Kasparov non riesce a vincere neanche una partita, è il momento del declino. Negli anni successivi vincerà ancora molti tornei, ma non arriverà più alla sfida per il campionato del mondo. Così nel 2005 Garry Kasparov annuncia il ritiro definitivo dalle competizioni. Io credevo nella mia invincibilità, ma persi il titolo, cosa che sapevo che prima o poi sarebbe successa, dopo 15 anni di vittorie. Rimasi comunque al numero uno della classifica mondiale per altri 5 anni, ma la cosa più importante che ho imparato è che non è mai troppo tardi per imparare. E deve essere difficile ammettere lo stato di crisi per un giocatore di scacchi di quel livello, che ha un ego smisurato, che in qualche modo pensa sempre di essere imbattibile. Terminata la carriera per Kasparov, si apre una seconda vita, una vita in giro per il mondo a fare conferenze motivazionali, allenare giovani scacchisti, a promuovere un libro bellissimo che ha scritto pochi anni fa, ne ha scritti anche altri successivamente. Rilascia interviste sulla situazione politica della Russia, che è rimasta comunque la sua nazione. Lui non scappa in Occidente, va e torna, perché quando è in Russia fa politica attiva. Si oppone apertamente al governo di Putin e in varie occasioni viene arrestato per avere preso parte a comizi, ha manifestato addirittura contro l'arresto delle Pussy Riot, quelle ragazze per le quali molti si sono mobilitati. Insomma, questo armeno coriaceo non ha smesso di combattere le sue personali partite a scacchi con la vita. Gli scacchi, un gioco che vi consiglio per allenare la vostra mente, la vostra memoria e la vostra creatività. Un gioco nel quale non si finisce mai di imparare e di migliorarsi. Poesia e scienza insieme. Sono storie di vite straordinarie quelle che abbiamo scelto di raccontare ogni giorno, e noi aspettiamo anche voi e i vostri suggerimenti contattandoci al sito ilfalcoilgabbiano@radio24.it, alla nostra pagina Facebook. Insomma, se volete ci trovate come e quando volete. Un saluto, un abbraccio. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.